tempo, forse troppo tempo fa. Un amore per le cose che si chiamava calore e dignità. Adesso è solo tentazione, la bellezza ostentazione, la purezza è data in pasto a un titolone. Non godi più ma fai vedere che hai già fatto tre carriere e non ti basta mai, perché non è quello che vuoi.